Non so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i saggi l'amore, amore mio. Se dentro l'anima tu fossi musica, se il sole fosse dentro te, se fossi veramente dentro l'anima mia, allora sì che udir potrei nel mio silenzio il mare calmo della sera. Però quell'immagine di te, così persa nei miei occhi, mi portò la verità. Ama quello che non ha l'amore.